negli anni molte cose sono cambiate, diciamo, il mercato del lavoro non è più quello di alcuni anni fa, chiaramente le persone, diciamo, più svantaggiate hanno ancora più difficoltà a trovare lavoro, perché adesso spesso persone molto qualificate, diciamo, si accontentano anche di un posto meno qualificato, figuriamoci persone che hanno già dei problemi, insomma, vengono a volte scartate a priori, insomma. Alla fine anche il lavoro dovrebbe servire al benessere della persona, in generale, di tutti, no? Quindi non solo allo stipendio, ma al benessere della persona. Se una persona sta meglio in un luogo un pochino più protetto, ma perché no? Noi tra l'altro siamo un'organizzazione che anche quei dipendenti utilizza un sistema un po' diverso rispetto magari all'azienda tradizionale, flessibilità di orari, di ruoli. Responsabilità diffusa, quindi è uno stile di tutta la cooperativa. E gli utenti che sono qui vi sono segnalati dai servizi sociali. Sì. Noi abbiamo scelto che ci sia sempre un ente inviante, lo chiamiamo, quindi può essere l'assistente sociale, il servizio di igiene mentale, piuttosto che l'ufficio del lavoro. Noi lavoriamo molto in collaborazione anche con i familiari, quindi insomma fare un po' un lavoro di gruppo. Per dare il massimo del risultato, comunque sì, ci vengono segnalati. E attualmente quanti sono gli utenti? 20. Nella storia della cooperativa è proprio stata una scelta, quella invece di avere dei professionisti, quindi molto orientata all'aspetto lavoro, no? Però che avesse chiaramente anche una preparazione di tipo sociale, quindi lì ci siamo formati semplicemente e ci formiamo sempre, abbiamo comunque anche un'attività di supervisione con uno psicologo che ogni tanto viene, coordina un po'. Ogni anno noi abbiamo come obiettivo anche una formazione per tutti i dipendenti di un tipo o dell'altro, perché a volte può servire di più una cosa, un altro anno un'altra, dipende, però siamo sempre formati, sempre aggiornati anche sull'aspetto sociale ed è un lavoro che dà un. Se fatto appunto, con passione, dà una grandissima soddisfazione, proprio perché si lavora con le persone, per le persone. Cerchiamo sempre di lavorare molto in gruppo. L'idea del gruppo, ogni persona nuova cambia il gruppo, quindi questo è molto importante, no? Proprio perché la cosa più importante, prima ancora che insegnare a fare il legatore, è lavorare con gli altri. Avendo a che fare con persone che spesso sono al di fuori dal mondo del lavoro, comunque che hanno uno svantaggio di un tipo o dell'altro, dove ci sono anche dei limiti oggettivi, riuscire a fare ognuno anche una piccola parte, ma una parte che comunque è importante per tutto il processo, dà un Mi senso a quello che si fa, gratifica. gratifica. La flessibilità è un po' la nostra caratteristica. Il Carto Club che avete visto nasce dagli scarti, veri scarti della legatoria, questi pezzi di carta che erano in giro, un peccato buttarli, a volte nascono anche da questo, insomma, le occasioni, no? E quindi è nato dagli scarti, cioè, e poi la filosofia nostra, insomma, tutto quel che la società butta nelle persone e cose tenderebbe a rifiutare, noi lo trasformiamo in qualcosa di bello.